in primo piano. Giovedì 21 luglio, le aperture, il Sole 24 Ore si dedica ancora alla manovra. È in gioco l'euro, questo è il titolo, continua il rimbalzo sui listini, Milano più 3%. Ma tutte le altre aperture sono dedicate proprio alla giornata politica intensa e decisiva di ieri. Strappo della Lega, Papa va in carcere, così apre il Corriere della Sera. Per Repubblica, Papa in carcere, sconfitto Berlusconi. La Stampa, il caso Papa spacca il centrodestra. Per il Giornale, tremate, le manette sono tornate, suicidio dei parlamentari. Libero, se sei del PD non ti arrestano, la casta rossa. Si riferisce al senatore tedesco. Il Fatto Quotidiano, Papa travolge Berlusconi, la Lega sfascia tutto ma salva Tedesco del PD. Per l'Unità, Berlusconi al tappeto. Il Messaggero, sì della Camera, Papa in carcere. Il Manifesto, l'ora di papi, questo è il titolo di apertura. Per Avvenire, manette spacca camere. Per il Riformista, il patto è saltato. Il Secolo XIX, la Lega fa arrestare Papa. Insomma, vedete che i titoli sono tutti concentrati su questa vicenda che vedremo alle 8.30, la vicenda politica che ha dei riflessi politici davvero importanti, qualcuno dice decisivi. Intanto però mi voglio concentrare come segnalazioni, per il secondo giorno consecutivo sono tanti gli articoli che si dedicano, che vengono dedicati a questa vicenda delle due gemelline siamesi nate unite con un unico cuore, per il quale l'operazione pare verrà fatta, un'operazione di separazione, questa è Sant'Orsola di Bologna, una separazione che però porta inevitabilmente alla morte di una delle due. Opererò le gemelline, ma il rischio è altissimo, parla il cardiochirurgo Gargiulo, intervistato dal Quotidiano Nazionale a pagina 17. Certamente i medici stanno ancora aspettando, ci sono ovviamente i dibattiti sui giornali. Registro che è intervenuto, interviene il senatore, che è un chirurgo anche, senatore del Partito Democratico, Ignazio Marino, sull'Unità, pagina 21, lo fa con un intervento nel quale ricorda la vicenda che forse ricordate anche tutti voi, di Marta e Milagro, era il 2000, all'ospedale civico di Palermo, una situazione analoga, due gemelline siamesi, mi chiesero di intervenire, scrive Marino in questo intervento sull'Unità, per la separazione del fegato, ma non me la sono sentita, sarebbe stato diverso se ci fosse stata la speranza, anche minima, di poter salvare entrambe le bambine, o non sapendo chi delle due sarebbe sopravvissuta, ma così non era, e non è nemmeno nel caso di Bologna. Bisogna dare alla realtà il suo nome. Qui un chirurgo deve fare un vero e proprio sacrificio umano e certamente non interviene in seguito a una donazione spontanea e consapevole. Io non credo che la questione possa essere ridotta alla dimensione tecnica e scientifica. Come si fa a decidere sulla base della possibile tecnica di eseguire un intervento che una persona deve vivere e un'altra morire? E quando il chirurgo è costretto a compiere un sacrificio umano, questo è il senso, è il titolo dell'intervento di Ignazio Marino, così come invece sul Giornale a pagina 17 interviene il sottosegretario alla salute Eugenia Roccella. Sulle gemelle non decida solo la scienza. Eugenia Roccella dice: l'etica deve avere voce in capitolo in quella che è innanzitutto una scelta in favore della vita. Auspica il sottosegretario che ci sia grande complicità, come pare esserci, tra medici e genitori delle due bambine. L'illusione, scrive Eugenia Roccella, che mi inquieta è quella che ci possa essere una valutazione solo tecnica e che i medici siano tenuti a fornire un parere che non abbia alcuna valenza etica. L'etica è una questione nobilissima, scriveva ieri Giordano Bruno Guerri sul Giornale. Però in questo caso non c'entra e non deve entrarci. Beh, il rischio, sempre secondo Guerri, è che si apra un dibattito astratto sulla vita e la morte, anzi che si arrivi a disquisizioni che con la vita e il dolore reale poco hanno a che fare, ma la tecnica e la scienza non sono e non possono mai essere separate dall'etica, né possono essere, per così dire, eticamente neutrali. Vabbè, il dibattito c'è davvero tanto sui giornali, è un tema interessante, non è neanche escluso che ce ne occuperemo nei prossimi giorni. Intanto voglio andare velocemente con la seconda segnalazione, il Fatto Quotidiano con Carlo Tecce ogni giorno ci regala una chicca sulla questione Rai. Oggi si racconta la storia, pagina 7 del Fatto, di un dirigente, Antonio Bruni, dirigente Rai, uomo di mondo, ha girato i cinque continenti. Che cosa fa? faccio premiare dal 94 i prodotti di Viale Mazzini della RAI e vado a ritirare le medaglie. A volte sono anche prosciutti. In Norvegia mi hanno dato un maglione. Una volta era un salame essiccato. L'agenda è fitta fitta, ha girato 6 continenti per l'appunto, dalla Nuova Caledonia all'Oceano Pacifico, tutto. Il poliedrico Bruni fa di tutto, davvero gira per il mondo, anche se Rai Trade, la società che gestisce il mercato estero, definisce la sua opera inutile e cerca di spingerlo in pensione. E poi lui si dedica anche alle poesie. E le poesie ne fa tante e Carlo Tè ce ne regala qualcuna. Una è dedicata al cetriolo. Il cetriolo. Di ruvido aspetto è rigido e muto, rifiuta gli sguardi nel verde segreto, rivela candore di morbidi semi, non cela infezioni, depura le rughe, difende la dieta, con tartaro acido i grassi combatte, con zucchero o sale, compagno a merenda, si sposa allo yogurt, corteggia insalata. Conclude l'articolo Carlo Tecce. Aridateci Bondi. Alle 7:33 minuti ieri è stata una giornata politica dir poco convulsa alla Camera e anche al Senato, si può dire. Si votava infatti una doppia richiesta di arresto alla Camera. Alla fine è stato dato il via libera, dunque il sì all'arresto, alla richiesta d'arresto da parte della Procura di Napoli nell'ambito dell'inchiesta P4 per l'onorevole Alfonso Papa del Popolo della Libertà, mentre respinta la richiesta di arresti domiciliari per il senatore tedesco del Partito Democratico, dunque questo al Senato. L'ha fatta la Lega la differenza, certamente, perché è il partito di maggioranza che aveva detto voteremo sì all'arresto, c'era il voto segreto. Secondo qualcuno questo avrebbe potuto portare a dei cambiamenti di scena improvvisi, ma invece c'è stato il sì. La Camera dice sì all'arresto contro Papa, leghisti decisivi, questo titolo al Corriere, mentre a pagina 2, mentre a pagina 3 il Senato salva il PD tedesco, rissa e accuse sul voto segreto. E guardate, è uno snodo secondo molti della legislatura questo. Intanto Liana Milella non è che intervista, ma fa un colloquio con Alfonso Papa, che peraltro è già in serata andato a Poggio Reale, già in carcere. Due birre, una valigia, la galera non mi fa paura. Questa è la cronaca della giornata, Liana Milella su Repubblica. Uno che è nato morto e che è resuscitato quasi per miracolo non può avere paura. E io non ho paura, inizia così Alfonso Papa. Ma quella che mi hanno fatto è una grande ingiustizia. Perché, spiega uno che è nato morto? Mi presero col forcipe dalla pancia di mia madre, allora si usava così, mi hanno distrutto una spalla, non ce l'ho, sono vivo grazie a un massaggio cardiaco, mi ha salvato mio zio Saverio, buonanima, convertito grazie a Padre Pio. E siccome sono scaramantico, in questa giornata inizia, ho preparato tutto, se votano per il sì, io sono pronto, mi sono già tagliati i capelli, ho bevuto le mie due ultime birre a pranzo e mi sono fatto la valigia. Così diceva prima poi dell'arresto, o meglio di avere scelto di andare in auto verso Poggio Reale. In realtà corre verso Poggio Reale, non è lì che voleva finire l'ex magistrato, racconta Liana Milella, preferiva Rebibbia a Roma. Il carcere di Orvieto era la seconda scelta, frenetiche trattative con i magistrati, cioè suoi ex colleghi, il destino poi lo riporta a Napoli. E insomma, la mattinata è iniziata con la messa e finita poi con appunto il trasferimento a Poggio Reale. È la prima volta nella storia che per reati che non siano di sangue viene concesso l'arresto, il sì da parte della Camera a una richiesta di arresto. E questo fa capire il momento drammatico. Berlusconi furioso con Bossi, così titola Il Sole 24 Ore a pagina 10. Pazzi. E poi appena succede la comunicazione del Presidente della Camera Fini del voto, quel pugno battuto sul tavolo subito da Berlusconi e l'urlo, comunque la parola vergogna che viene detta subito. Il problema è che si crea e si è creato subito un grave problema politico con la Lega. L'ira di Berlusconi anche per il Corriere, tenuti sotto scacco, Bossi è ancora leader. Siamo nelle mani della Lega che ci tiene sotto scacco. Sentite Libero con Salvatore Dama, ancora più duro, Silvio furioso, via Bobo. Bobo è Roberto Maroni, perché all'interno della Lega tutti i cronisti da giorni hanno fatto notare che si era creata una spaccatura, cioè Bossi, che dopo aver detto in galera Papa, poi però aveva detto ma insomma no, non si può mandare in galera uno prima del processo, mentre Maroni e i deputati maroniani che hanno tenuto il punto. E allora il punto è questo, che Berlusconi dopo il voto di ieri dice: a questo punto Bossi non conta più, non è più il leader, evidentemente il leader della Lega è Roberto Maroni. Il premier se la prende con i suoi deputati. Salvatore Dama racconta di un Berlusconi che dice: cosa? Per qualche istante non capisce, complice il silenzio irreale sull'emiciclo. Niente fischi, niente applausi, niente urla. Effettivamente c'è stato questo silenzio irreale dopo la comunicazione del voto del presidente Fini per qualche secondo. E Berlusconi dice: non capisce bene chi abbiano vinto. Si rivolge al ministro Fitto, capisce che hanno vinto i sì, e dunque il sì all'arresto di Alfonso Papa. Non è possibile, è una vergogna. Intanto Alfonso Papa già vaga, zigzagando senza senso, finché i commessi non lo afferrano prima che sbatta per terra svenuto. Berlusconi è fuori di sé, arriva nel suo studio alla Camera. Sono dei grandissimi stronzi, ecco cosa sono. Questo riferito a tutti i 319 deputati che hanno votato sì. Dei pazzi, degli irresponsabili, gente senza coscienza. Pur di colpire me e di far cascare il governo, fanno del male a un loro collega solo per calcolo politico, lo mandano in galera senza rimorsi. Sono pazzi, mi fanno schifo. Così lo sfogo di Berlusconi, mentre Alfonso Papa ai giornalisti diceva di lì a poco, prima di andare in carcere: sono un prigioniero politico. Questa è la frase, certamente, che a suo modo entrerà nella storia in questo momento drammatico di Alfonso Papa. La Padania titola: Lega coerente sugli arresti. Il PD predica bene, razzola male. Ma vedete, anche Francesco Verderami sul Corriere della Sera dice: il premier e il senatur travolti, ora il governo è a rischio nell'analisi politica, negli scenari politici. Verdini che dice: ci vuole un rimpasto profondo. E c'è anche questo bigliettino che, secondo Libero, Berlusconi avrebbe mandato a Casini in aula: ti dovresti vergognare per quello che state votando, perché l'UDC ha votato a favore dell'arresto di Alfonso Papa. E Francesco Verderami sul Corriere si chiede: ma avanti dove questo governo? Fino a quando? Avanti fino al termine della legislatura, dice ancora il ministro Matteoli. Ma a un cambio in corsa, un Berlusconi che decida di sparigliare e passare la mano, nessuno ci crede nel PDL. Così è difficile perfino la navigazione a vista in una coalizione dove i capi hanno perso il controllo delle truppe. Ma davvero, il tema è quello della tensione con la Lega. Bossi e Berlusconi si dovranno vedere, dice in un'intervista al Corriere della Sera Fabrizio Cicchitto, capogruppo del PDL, a pagina 5, dal carroccio logiche di scontro politico. E Cicchitto dice: dovremo capire quali sono le intenzioni politiche reali di Maroni anche al di là di questa vicenda. Perché questa frase è importante, anche al di là di questa vicenda? Perché secondo molti, secondo i maligni all'interno del Popolo della Libertà, Maroni avrebbe in qualche modo già l'accordo addirittura con il PD per un possibile futuro governo, diciamo, di coalizione con Maroni stesso presidente del Consiglio. Beh, intanto, dice Cicchitto, Bossi e Berlusconi non si sono sentiti dopo il voto, ma ora dovrà esserci un chiarimento. E Berlusconi, secondo retroscena, dice: beh, il chiarimento ci sarà venerdì in Consiglio dei Ministri, dovrò parlare con Bossi perché capire chi comanda il partito. Anche la stampa punta su questo tema, che è il tema politico più interessante. Si spezza il monolite leghista e Bossi diserta il voto. A pagina 3 Fabio Martini, in un articolo che per la verità inizia in prima pagina, scrive Martini: alla fine, dopo 22 anni, il monolite si è spezzato. Appena il presidente della Camera finisce di leggere i risultati della votazione che manda in galera Papa, si capisce che si è consumato qualcosa di inaudito. La Lega, dal 1989, il più tetragono partito italiano, si è rotta, tagliata in due spicchi. La maggioranza degli onorevoli ha seguito le indicazioni di Maroni, favorevole all'arresto, e soltanto una minoranza ha preferito interpretare i suggerimenti del capo, Bossi. E dunque l'Umberto, il vecchio capo acciaccato, per la prima volta in vita sua, è finito in minoranza. Per capire cosa sia accaduto, più di ogni aggettivo è eloquente la sequenza che si dipana nell'emiciclo di Montecitorio. Alle 18:38, Sul tabellone si sono appena spenti i numeri del voto, l'aula precipita in un silenzio generalizzato. Sarà lo stupore, la paura dell'incognito, ma è un silenzio raggelante, un attimo indimenticabile per chi si trova lì. Il presidente del Consiglio ha lo sguardo inciso nel vuoto, un volto senza espressione, ma lassù, tra i banchi della Lega, c'è anche un ministro che sorride. È Roberto Maroni, leghista di lotta e di governo, sul suo viso una letizia incisa appena sulle labbra, che replicherà qualche minuto più tardi chiacchierando coi cronisti. La Lega è coerente, tutti hanno votato come avevamo annunciato. Così Fabio Martini sulla Stampa. E poi questa frase attribuita a Berlusconi sempre sulla Stampa. Ormai la parola di Bossi non conta più nulla. Avrebbe detto Berlusconi, ora bisogna trattare con Maroni. Allora, i commenti sono tantissimi, i commenti politici ovviamente. Stefano Folli in prima pagina sul Sole 24 Ore, una scelta che cambierà il futuro del centrodestra. Come un missile fuori controllo, la questione morale esplosa nella maggioranza, si è trasformata in una drammatica questione politica. Il voto favorevole all'arresto ha scavato un abisso tra Berlusconi e la Lega, mettendo il presidente del Consiglio all'angolo. Erano 27 anni che la Camera non concedeva l'autorizzazione all'arresto di un deputato. Lo ha fatto ieri, con una scelta le cui conseguenze saranno pesanti, destinate a modificare presto o tardi e forse prima che poi i rapporti politici nel centrodestra. Lo ha capito il Premier prima degli altri, quando al colmo dell'ira ha sibilato distinto: questo è un voto contro di me. E in fondo è proprio così, dice e scrive Stefano Folli. In prima pagina del Giornale invece Vittorio Feltri: tremate, le manette sono tornate. Questo è il titolo a tutta pagina del Giornale. E scrive Feltri: a occhio e croce un aiuto ai giustizialisti è venuto dalla Lega, timorosa di scontentare la base, ansiosa di recuperarne la fiducia. Ciò che però minaccia di rovinare il giochetto dei tifosi delle manette è l'assoluzione a Palazzo Madama di Alberto Tedesco, senatore del PD. La gente, non solamente di centrodestra, si domanda come mai due pesi e due misure. Come mai l'onorevole del PDL viene sbattuto in galera con la benedizione della Camera, mentre il senatore del PD è stato graziato? Questo è l'altro tema politico, effettivamente. Mentre Giuliano Ferrara sul Foglio, con il titolo L'aula del disonore, commenta così: certe vergogne non si commentano. Papa, che viene definito da Ferrara questo magistrato in licenza premio nel palazzo della politica, che è un cattivo soggetto, una personalità che appare di ambizioni dubbie, proclive a bassi servizi, a pratiche illegali, peraltro parecchio diffuse. Ma Papa, oltre che un indagato, è un deputato della Repubblica. E i deputati che nella sua storia alla Camera ha consegnato alla galera, giusto o sbagliata che fosse, erano finora quattro, tutti legati alla stagione più dura della Guerra Fredda, come il partigiano comunista Moranino, parlamentari neofascisti, Toni Negri. La decisione di ieri della Camera ha questo solo significato per Ferrara. Dobbiamo dare impasto all'opinione pubblica eccitata dal circuito mediatico giudiziario in una specie di ordalia tribale mascherata dalla libertà di coscienza uno dei nostri, un qua quaraquà sacrificale. Questo voto scandaloso non riguarda maggioranza o minoranza, correnti e interessi piccini di piccola officina politicante, velleità altre miserie personali. Riguarda la questione centrale della nostra democrazia dopo la crisi della Repubblica, la definizione di una rigorosa autonomia del potere politico e delle ambizioni militanti del partito mediatico giudiziario. Una Camera che si consegna mani e piedi a Henry John Woodcock ratifica la sua irrilevanza e merita di sopravvivere nell'ignavia. Woodcock è il PM che indaga, uno dei PM per la verità, che indaga sulla cosiddetta P4. Chi sostituirà Alfonso Papa? Perché adesso c'è ovviamente una casella vacante alla Camera. Il Fatto Quotidiano lo mette in un riquadro: lo sostituirà la sua assistente, Maria Elena Valanzano, nonché si passi lo scranno all'assistente, che è risultata la prima dei non eletti dopo Alfonso Papa. Maria Elena Valanzano, che cos'ha anche come caratteristica in questo momento, è indagata anche lei nell'inchiesta P4 per la quale Papa è stato di fatto arrestato. Tangenti al PD penati in Lussemburgo e Svizzera. Questo è il titolo del Corriere della Sera. L'inchiesta riguarda colui che è stato per tanti anni sindaco di Sesto San Giovanni, presidente della provincia di Milano e ora vicepresidente della stessa del consiglio provinciale, insomma un esponente di spicco del Partito Democratico in Lombardia. Scrivono Luigi Ferrarella e Giuseppe Guastella: cos'è l'accusa? La vicenda è quella dell'area ex Falck. Un bonifico di 2 miliardi e mezzo di lire in Lussemburgo tramutato in contanti per essere consegnati dalla banca a un intermediario su via libera telefonico. Altri 2 miliardi di lire consegnati a mano in contanti in Svizzera a un altro mediatore durante una passeggiata. La permuta tra due terreni di impari valore per mascherare il versamento occulto di 1 miliardo e 250 milioni di lire. Insomma, in tutto fanno 5 miliardi e 750 milioni le tangenti che l'82enne costruttore Giuseppe Pasini, ex proprietario dell'area industriale dismessa delle acciaierie Falck a Sesto San Giovanni e lì attuale consigliere comunale, dice di essere stato costretto a pagare nel 2001 a due fiduciari dell'allora sindaco dei Democratici di sinistra, Filippo Penati. Insomma, l'accusa è questa. Il costruttore Pasini dice di aver versato tangenti per 5 miliardi 750 milioni a due emissari di Filippo Penati. L'accusa ovviamente è gravissima. Penati dice: non ho nulla da temere, spiegherò tutto, ma certo c'è anche questo che si va a sommare al clima che c'è nel paese. Tra l'altro io ricordo il nostro sondaggio, il clima di antipolitica che è diffuso, l'abbiamo raccolto anche nelle testimonianze degli ascoltatori. Secondo voi siamo a un nuovo rischio di lancio di monetine, come l'ha evocato Antonio Di Pietro in un'intervista all'Unità ieri? Insomma, la pagina politica oggi, come vedete, è molto, molto densa, molto intensa. Vediamo se c'è qualcos'altro. Sì, intanto sul Sole 24 Ore voglio segnalare anche oggi tante pagine dedicate alla manovra, allo speciale manovra, ma anche alla situazione difficile, il vertice di Bruxelles per cercare il salvataggio anche sulla situazione finanziaria europea, soprattutto in particolare sulla Grecia. Oggi sulla manovra soprattutto vi segnalo la stretta sugli studi di settore che il Sole mette in prima pagina, una manovra tenaglia contro le infedeltà da studi di settore, perché per chi non comunica dati rilevanti scatterà una maxi sanzione da 2.065,83 euro e in caso di accertamento con contestazione di quanto dichiarato la penalità può arrivare al 300% della maggiore imposta. Sono le novità nella manovra che ha ridisegnato il regime dei contribuenti minimi, illustrate nell'inserto speciale che oggi è in regalo con il Sole 24 Ore. Insomma, altri dettagli della manovra. D'altronde la manovra è una cosa molto complessa, man mano che viene studiata, approfondita, ci sono dettagli che il Sole 24 Ore spiega quotidianamente. Io gliel'avevo detto, così ti metti nei guai. Chi ha detto questa frase? Chi ha detto questa frase? Faccio questo indovinello. L'ha detto la madre di Rupert Murdoch. E dove dite, Rupert Murdoch ha una madre? Certo, ha una madre ancora vivente, ha 102 anni, vive in Australia, vive e vegeta, è lucidissima, il suo numero di telefono squilla in continuazione da parte dei giornalisti. Il Secolo XIX mette in prima pagina questa dichiarazione che davvero è straordinaria a suo modo. Io gliel'avevo detto, così ti metti nei guai, caro figliuolo. Rupert Murdoch, la mamma 102enne, dice così: ti metti nei guai. Si è limitata a dire questa frase. Dame Elizabeth Murdoch, 102 anni appunto, nella grande villa della tenuta di Cruden Farm, tenuta da 50 km a sud di Melbourne in Australia, glielo dissi ripetutamente che non doveva farlo, perché quello non era il giornalismo che aveva ereditato dal padre, è un'infernale macchina del fango che prima o poi ti porta nel fango. Ah, la saggezza degli anziani. Intanto, insomma, la vicenda Murdoch ancora assume tanti contorni. Per esempio Cristina Nadotti su Repubblica racconta, ci sono degli episodi che stanno venendo fuori davvero incredibili, misoginia, notizie costruite e soprusi, così Rebecca Brooks ci faceva dare il peggio ai lettori. Ora arrivano le confessioni, in questo caso la confessione di Michael Taggart, che è andato via dai giornali e poi ha raccontato degli episodi incredibili. Per esempio, Storie dell'incredibile. Un giornalista costretto ad andare in giro per Londra vestito da Harry Potter per dare credito alla Pottermania. Cioè inventavano le notizie così, prendevano dei giornalisti, dicevano vai in giro vestito da Harry Potter, facevano due foto, dice vedete c'è la mania a Londra di andare in giro vestiti da Harry Potter. E quando lui si rifiutò, questo giornalista, non voleva farlo più, soprattutto dopo l'11 settembre 2001, fu obbligato a indossare i panni del maghetto anche in redazione. Ma che è? Cioè, voglio dire, per punizione doveva vestirsi da maghetto. Vabbè. Fa ridere tanto quanto la notizia che purtroppo drammatica, c'è una guerra ma viene dalla Libia, quasi viene da ridere, ha preso in giro tutto il mondo e ora Sarkozy dice forse Gheddafi può anche rimanere, basta che non stia al potere, non faccia più politica. Ma Gheddafi in Libia può rimanere? Già, che fine ha fatto Gheddafi? Ma non se ne sa più niente. Intanto andiamo a ascoltare il GR24.